RHS Italia nasce all'inizio degli anni 90 per volontà di un imprenditore romano che fondamentalmente ha strutturato una società per poter fornire servizi di manutenzione agli impianti meccanici dell'aeroporto. Il cliente principale in quegli anni era chiaramente l'aeroporto di Roma Fiumicino, che per molto tempo è stato praticamente l'unico cliente dell'azienda. Intorno alla metà degli anni 90, nel 1995, c'è stato un cambio di proprietà. La vecchia società RHS è stata rilevata dall'attuale titolare, il dottor Elio Franci, che ha provveduto a una ristrutturazione completa della società e anche ad un cambio di strategia ed orientamento. Da quel momento, da piccoli manutentori di sistemi meccanici, ci siamo strutturati per diventare una società che fosse in grado di fare design, creazione e progettazione di tali impianti per poi passare alla produzione. Gli impianti di cui parliamo sono i tanto discussi impianti che movimentano i bagagli in aeroporto. Sono impianti poco conosciuti perché hanno pochissima interfaccia col cliente finale. Chi viaggia li vede solamente nel momento in cui si registra e poggia il proprio bagaglio nel check-in, dove gli viene comunicato il peso della valigia, e al momento del ritiro su quei grandi nastri circolari. Noi dal 1995 facciamo design, creiamo queste macchine meccaniche cercando di sfruttare al meglio quello che la tecnologia propone sul mercato per quanto riguarda la movimentazione e poi le produciamo in proprio. È un mercato estremamente particolare anche perché la prima analisi che si può fare che salta agli occhi è che in tutto il mondo ci sono accreditate non più di 12 aziende che hanno come core business questo settore. Probabilmente uno degli ambienti a concorrenza più limitata che esiste sul pianeta. Questo paradossalmente genera una concorrenza agguerritissima, proprio perché ci si conosce quasi faccia a faccia fra noi e tutti gli altri. Tornando alla nostra storia, la parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990. Parte produzione è cominciata nel 1990.